Radio 24 Reportage. L'ombra, dall'immunità di gregge al restate a casa. Escalation di una crisi. Di Livia Zancaner. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. You must stay at home. The government has decided that the current measures must remain in place for at least the next 3 weeks. Il 13 marzo l'annuncio shock, molte famiglie perderanno i propri cari, il 23 marzo dovete stare a casa, il 12 aprile ho pensato di perdere la vita, il 16 lockdown prorogato di 3 settimane. Ecco, in sintesi, tramite le parole del premier Boris Johnson e per ultimo del ministro Dominic Raab, l'escalation dell'emergenza coronavirus a Londra e nel Regno Unito, dove i morti sono più di 18.000 e i contagi diagnosticati 130.000. Se restiamo uniti vinceremo, le parole della regina Elisabetta il 5 aprile nel discorso alla nazione dal castello di Windsor, dove si è trasferita. Da Piccadilly Circus alla London Tower, le piazze e le strade della City sono deserte, negozi, alberghi, ristoranti, scuole e musei sono chiusi, sui muri e i palazzi si vedono le scritte Stay Home, Save Lives, si sentono gli applausi all'NHS, il servizio sanitario pubblico, ma i britannici, in particolare i londinesi, ci raccontano di una città tranquilla, con i parchi aperti e le corse sulle rive del Tamigi. Sì, perché gli inglesi hanno diritto a un'ora d'aria al giorno e possono fare attività fisica rispettando la distanza di sicurezza ma senza obbligo di mascherina, ci racconta Paolo Taticchi, professore all'Imperial College London. Sono rimasto sinceramente colpito da come le persone stiano seguendo le indicazioni del governo. Se uno esce per strada o va nei parchi, vede delle persone in giro che sono a passeggio, che stanno facendo jogging o bicicletta, però diciamo tutte nel pieno rispetto di quelle che sono le regole, ovvero da soli, mantenendo le distanze di sicurezza e molto spesso dotati di mascherine, cosa che non viene in questo momento richiesta dal governo inglese. C'è anche molta polizia in giro che controlla che queste regole vengano seguite e sono state prese anche delle misure di precauzione, ad esempio sono state chiuse le aree gioco nei parchi. Sicuramente una cosa che colpisce è che quando arriva la sera, Londra, che era tipicamente una città particolarmente rumorosa, in questi giorni è particolarmente silenziosa e devo dire che questo silenzio è quasi affascinante. Le scuole dal 20 marzo sono chiuse, ma sul fronte universitario poco è cambiato, dice Taticchi, che lavora smart working e tiene lezioni a una quarantina di studenti dislocati in vari paesi, alcuni rientrati a casa prima del blocco. L'Imperial College di Londra sicuramente è una delle università internazionali con più expertise sul fronte della didattica online, per cui per noi questa transizione non è stata particolarmente traumatica. Sicuramente è stata complessa, ad esempio nel caso della business school ci siamo trovati a dover improvvisamente insegnare online quasi 2000 studenti, quando normalmente insegnavamo online circa 300 studenti, per cui chiaramente questo ha comportato delle complessità dal punto di vista gestionale. Devo però dire che nel complesso le università inglesi erano sicuramente più preparate, ad esempio rispetto a quelle italiane, sul fronte della didattica online, sia in termini di tecnologia che di preparazione dei professori a questo tipo di didattica. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Per gli studenti più piccoli è più complicato. Raffaella Bertolini insegna in una Year 6, sesta elementare, più o meno la nostra prima media. Nell'istituto ci sono 500 bambini, per lo più stranieri, arabi, del Bangladesh e dell'Est Europa. Impossibile fare didattica online, ci spiega. Noi non facciamo online schooling. Quello che facciamo è diamo i compiti sul portale della scuola, quindi noi abbiamo il website della scuola e lì i bambini trovano i compiti ogni lunedì e ogni mercoledì. L'unico problema con questo è che non abbiamo un modo per correggere i compiti e di conseguenza quello che io penso che succederà è che se la scuola verrà chiusa per tempo più lungo bisognerà trovare un modo per fare homeschooling. Non si sa ancora quando riapriranno le scuole. Al momento le lezioni sono garantite per i bambini vulnerabili, quelli che hanno bisogno di un sostegno e per i figli degli operatori sanitari. Medici e infermieri sono sempre in prima linea. Al St. Thomas, ospedale nel centro di Londra dove è stato curato Boris Johnson e dove sono ricoverati circa 400 pazienti Covid, la situazione al momento sembra sotto controllo, sottolinea Lorenzo Garagnani, ortopedico e primario chirurgia della mano. L'ospedale ha messo in atto una serie di strategie e procedure volte da un lato al potenziamento della capacità ricettiva della terapia intensiva, che si è ottenuto mediante la creazione di ulteriori aree di terapia intensiva nella propria struttura, e dall'altro al potenziamento del servizio di emergenza ed urgenza, ossia del servizio di pronto soccorso. In entrambi i casi, a causa dell'elevato numero di accessi di pazienti urgenti, si è resa necessaria la riassegnazione di personale sanitario allo scopo di coprire sia i turni di terapia intensiva che quelli di pronto soccorso. I servizi elettivi invece, ossia quelli non urgenti, sono stati ridotti. Questo allo scopo sia di riassegnare personale sanitario e strumentazioni alle terapie intensive e al pronto soccorso, sia allo scopo di ridurre gli accessi ospedalieri ed il conseguente rischio di esposizione al coronavirus per i pazienti affetti da patologie non urgenti ed in particolare per quelli che sono più vulnerabili o più a rischio. I servizi quindi di assistenza e di consulenza sanitaria essenziali vengono ora prevalentemente svolti mediante la telemedicina. Il sistema sanitario è stato molto efficiente nel creare una rete di strutture come l'ospedale da 4.000 posti letto costruito ad hoc nel quartiere fieristico Excel per dare assistenza ai pazienti Covid, ci spiega Garagnani, che lancia però un appello. È necessario che tutti mantengano la consapevolezza della gravità della situazione e continuino a seguire le regole di social distancing, ossia di mantenimento di adeguata distanza dalle altre persone. La situazione rimane grave, il rischio di contagio rimane reale. Bisogna quindi resistere e non cedere alle tentazioni e soprattutto non abusare delle piccole libertà che sono state concesse in UK ed evitare quindi di creare situazioni di affollamento. La percezione comunque che ci sia meno panico rispetto all'Italia, sottolinea Gabriele Vitali, un passato nel mondo della finanza dal 2014 nel settore della ristorazione. Noi fondamentalmente abbiamo deciso di chiudere i locali ancora prima che arrivasse l'ordinanza del primo ministro, sia per una questione di sicurezza evidentemente, sia per una questione di calo clamoroso delle vendite. Invece con il laboratorio siamo andati avanti e ci siamo reinventati partendo con un servizio di consegna. Abbiamo aperto praticamente un servizio di shopping online, abbiamo creato un piccolo menù di piatti pronti da mettere in forno e altri invece da tipo pasta fresca, gnocchi freschi e un po' di toppings da abbinare, e quindi abbiamo cercato, diciamo così, di ripartire in questo modo. Avendo noi poi tutto il cibo senza glutine e anche con molte alternative free from, quindi vegane, vegetariane, facciamo anche una sorta di servizio per le persone che hanno anche queste esigenze, chiaramente. Una delle cose che è successo qua in UK, c'è stato un po' di panic buying nei supermercati all'inizio, quindi scaffali vuoti, e purtroppo molto cibo gluten free è stato anche comprato da persone che non hanno nessun tipo di disturbo, e quindi i cieli ci sono rimasti un po' a secco. Ma non tutti hanno reagito così, alcuni hanno preferito lasciare la città, italiani compresi, dichiara l'avvocato fiscalista e presidente della Camera di Commercio italiana nel Regno Unito, Alessandro Belluzzo. Purtroppo l'Inghilterra, come sempre, Londra ancora di più, diversamente invece la Scozia e il Galles, hanno avuto una reazione molto molto più violenta alla crisi, e quindi alcuni businesses, catene di ristoranti, negozi o altro, avevano già licenziato le persone prima ancora di sapere che c'erano gli aiuti governativi che gli avrebbero permesso di non licenziarle. Quindi tanta gente si è trovata senza lavoro ad abitare in un appartamento piccolo che deve magari dividere con altri, ha preferito tornare a casa in Italia subito. Altri invece che hanno potuto scegliere e capire meglio cosa fare sono rimasti qui. Alla fine chi è rimasto qui magari ha avuto l'agevolazione di poter ottenere quel contributo, diciamo, governativo, e gli employer hanno potuto scegliere se lasciare a casa le persone con questo contributo governativo o fare dei part-time verticali o fare altre scelte di chiusura totale di attività temporanea, e all'interno si sono tutti organizzati. Chi ha aspettato ha avuto questa agevolazione e alla fine gli è convenuto rimanere qui. La Gran Bretagna ha varato un maxi piano di aiuti da 350 miliardi. Una parte servirà per pagare l'80% degli stipendi dei lavoratori dipendenti da marzo a giugno, oltre ad aiuti per gli autonomi, le piccole e medie imprese e così via. Certo, l'impatto economico della pandemia sarà enorme. Per il Fondo Monetario Internazionale, il PIL britannico quest'anno scenderà del 6,5%. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.